Ta. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo di quanto annunciato dal governo tra ieri e oggi, ossia le intenzioni di mettere già in legge di stabilità delle misure sull'occupazione. È un po' di giorni, di settimane che se ne parla. Tre anni di contributi dimezzati alle imprese che assumeranno giovani in maniera stabile, e poi chiariremo cosa vorrà dire anche stabile e come la norma allo studio preveda di evitare i furbetti, cioè quelli che potrebbero rischiare di licenziare un dipendente per assumerne uno con la stessa mansione, semplicemente avvantaggiandosi di tre anni di decontribuzione, perché ci sarà un paletto, cioè non puoi aver licenziato nei sei mesi precedenti e nei sei mesi successivi. Se lo fai perdi tutti i vantaggi. Comunque ci sarà comunque un tetto all'esonero di 4.000 euro l'anno. Non si è ancora chiarita l'età, 29 o 32 anni. Comunque ieri e anche oggi a margine, durante l'assemblea di Confindustria Emilia Romagna, il ministro Poletti è intervenuto, e ieri l'aveva già illustrato ai sindacati in un incontro di 4 ore. L'obiettivo è di avere 300.000 nuovi contratti a tempo indeterminato da qui alla fine dell'anno prossimo, e poi previsto anche dal 2021 un taglio permanente del cuneo fiscale sia in favore delle imprese che dei dipendenti. Dal 33% dovrebbe scendere al 30% per chi è stato assunto con il Jobs Act introdotto nel 2015. E parleremo anche delle opzioni per gli imprenditori a questo punto, che se il governo andrà avanti con quello che appunto il ministro ha illustrato ieri ai sindacati. Parleremo però anche dei consumi del nostro paese, perché dopo 2 settimane di dati sempre positivi, l'abbiamo detto 1.000 volte, sul PIL, sulla fiducia dei consumatori e imprese, e anche sull'occupazione, per quanto siano positivi per gli over 50, non così positivi per i 35-44 anni. Dicevo, c'è un dato invece che segnala una battuta d'arresto in questo clima economico comunque in miglioramento. Le vendite al dettaglio a luglio, che sono l'indicatore principale che usiamo per i consumi, segnano una battuta d'arresto rispetto al mese precedente. Meno 0,2 su giugno sia in valore che volume, ma soprattutto meno 0,4 rispetto a un anno prima. Tiene solo l'alimentare, se andiamo a guardare il dato come valore economico, e la contrazione comunque è generalizzata. Tra l'altro ne parleremo, perché oggi, sempre in tema di macroeconomia italiana, il capo della segreteria tecnica del Ministero dell'Economia e Finanze, Fabrizio Pagani, ha detto che quest'anno con la crescita del PIL addirittura potremo fare meglio anche dell'1,5%. Nel frattempo, per garantire agli statali un aumento contrattuale di 85 euro, il governo starebbe pensando a una terza tranche di circa 1,5 miliardi, 1,6 miliardi di euro da destinare in manovra come aggiuntiva rispetto a questo, a quanto già previsto dalle leggi passate. Ma questo lo affronteremo nell'approfondimento sulle le misure che il governo intende sviluppare per l'occupazione. Parleremo invece dei consumi con il capo del centro studi della Confcommercio. Perché appunto il dato è abbastanza sorprendente, anche perché nei primi 7 mesi comunque le vendite complessivamente al dettaglio restano deboli, e Confcommercio parla di un quadro che resta comunque incerto. E poi, per quello che riguarda invece, vedo già alcuni ascoltatori che me lo chiedono, i temi più di carattere finanziario, avremo un approfondimento sulla vicenda Cassa di Risparmio di Genova, adesso vengo anche alla borsa, in deciso rialzo dopo che il socio di maggioranza Malacalza, che ha il 17,5% del capitale, vuole blindare l'aumento di capitale da 560 milioni di euro, che deve essere deliberato il prossimo 28 settembre, un aumento di capitale che vale 0,5 miliardo di di euro. E in questo modo la banca avrebbe messa al riparo da possibili investitori e acquisizioni esterni. E di questo parleremo perché il titolo si è mosso moltissimo oggi in borsa. Infine torneremo a parlare di Alitalia. Perché? Perché insomma la scadenza è per il prossimo 2 ottobre, quella che Ryanair ha, quella che è fissata dal governo, ma entro la quale Ryanair dovrà presentare un'offerta vincolante per l'acquisto di Alitalia, ma solo sull'asset che riguarda il lungo raggio. Questa è l'offerta che vuole presentare Ryanair, lo ha confermato oggi in conferenza stampa dell'aeroporto di Bologna il numero uno Michael O'Leary. Ieri Air France ha detto di non essere interessata in alcun modo né ad Alitalia né una parte né il tutto, così come non è interessata Air Berlin. Entro il 15 settembre ci si può fare avanti per accedere al data room e quindi avere in mano quelli che sono i conti, i dati sensibili sull'Italia, e entro il 2 ottobre vanno presentate le offerte vincolanti. Al momento sarebbero tra i 13 e i 15 potenziali interessati, nessuno si è fatto avanti però per avere tutta la compagnia, molti sono interessati o alla parte aviation, quindi anche la manutenzione, oppure il handling, ma insomma non è un mistero che l'obiettivo del governo e anche dei commissari è vendere la compagnia per intero, non a pezzi. E anche di questo parleremo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. E adesso andiamo con le notizie in breve, soprattutto partendo dalla borsa. Sì, partiamo dalla borsa. Allora, Milano positiva dello 0,30%, come Parigi. Francoforte fa meglio, più 0,70, Londra meno 0,14, Dow Jones più 0,24%. Tra i titoli poi arriviamo anche alla Cassa di Risparmio di Genova, comunque Fiat Chrysler più 3,90, Saipem più 3, A2A più 2, Mediaset più 1,5, Xor più 1,30, Italgas più 1,20, Banca Generali più 1% come Tenaris, Eni più 0,70 come Snam ed Enel. Chi perde oggi sul listino? Finecobank l'1% come Leonardo, lo 0,80 Biper Banca, meno 0,5 per Case New Holland e Moncler, ma anche Banco BPM ed Azimut. Euro sopra quota 1,19, 1,1942, quindi dopo essere sceso nei giorni scorsi è tornato sui livelli relativamente alti l'euro nei confronti del dollaro. Per quello che riguarda le notizie di carattere internazionale, andiamo sul tema, ci sono varie dichiarazioni sia di Trump sul tema dei Dreamers, ha detto che andrà avanti lui se il Congresso nei prossimi 6 mesi non riesce a legalizzare i DACA, e poi invece per quello che riguarda la Corte Europea, già i nostri GR24 vi hanno ricordato come la Corte Europea abbia respinto i ricorsi contro il relocation, cioè ha rigettato le cause avanzate da Slovacchia e Ungheria che non ne volevano sapere di partecipare al programma di ricollocamento dei migranti. Comodo così, aggiungo io, tanto se li smazza l'Italia, in alcuni casi la Grecia e la Spagna. L'Ungheria ha definito la decisione della Corte Europea oltraggiosa, mette a rischio la sicurezza dell'Europa. È bellissimo questo atteggiamento di Budapest, perché finché i migranti, gli sbarchi sono in Italia, la sicurezza dell'Europa non è messa in discussione. Se arrivano in Ungheria, sì. Interessante come principio. Ancora l'Unione Europea ha risposto all'Ungheria, e lo ha fatto il commissario europeo Avramopoulos, dicendo i giudici sono indipendenti, lavoriamo una proposta di riforma. Comunque in Italia, ha fatto notare Avramopoulos, c'è stato un calo dell'81% rispetto a un anno fa dei flussi di sbarchi di migranti e un calo del 66% rispetto a luglio. Restiamo in Europa con notizie di carattere macroeconomico. Sono calati gli ordinativi a sorpresa all'industria tedesca a luglio, meno 0,7%. mentre per quello che riguarda la maxi multa, qualcuno se la ricorderà, maxi sanzione dell'Unione Europea al colosso Intel per abuso di posizione dominante, è stata sospesa, annullata la sentenza del tribunale, e quindi bisognerà rifare tutto per la multa da 1 miliardo e 6 milioni di euro inflitta appunto dalla Commissione Europea a Intel. (Oh) 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Allora, all'interno di una, dicevamo, di intere giornate, anche oggi, appunto, c'è un'ipotesi di chiudere l'anno, l'ha fatta sua Pagani, di chiudere l'anno meglio anche dell'attesa dell'1,5%. Pagani, che è appunto il capo della segreteria tecnica del Ministero dell'Economia e Finanze, dice forse andremo anche meglio. Ricordo che la prima previsione l'anno scorso era di fare un 2017 con un più 0,8. Tutti quanti sono abbastanza orientati a dire beh, faremo almeno 1,5%, che è quasi il doppio. All'interno di questo scenario, però, con buoni dati, il dato di oggi non è buono e segnala soprattutto ancora una forte difficoltà sui consumi, che mancano all'appello. Poi adesso so che mi scriverete, certo, con i salari da fame, con la disoccupazione, è chiaro che non è che gli italiani non consumino perché sono diventati così improvvisamente dei pauperisti, però... Da questo punto di vista il dato ha sorpreso un po' tutti, perché meno 0,4% in valore rispetto all'anno prima e meno 0,2% rispetto al mese di giugno vuol dire che sostanzialmente tutto è ancora molto molto fermo, e l'Istat fa sapere che crescono solo le vendite nei discount, cala il resto sia sugli ipermercati che i supermercati che le cosiddette botteghe. Il dato al di là di luglio, se si prende se si prendono i primi 7 mesi del 2017, non cambia, le vendite al dettaglio restano deboli. Ogni tanto, insomma, per carità, la deflazione è alle spalle, però i prezzi si sono mossi in alcuni settori dell'alimentare, solo in alcuni settori dell'alimentare, e non è un caso appunto che Confcommercio parli di un quadro che resta incerto. Mi scrive, beh, insomma, dov'è la notizia? In luglio c'erano 50 gradi, le persone... Sì, però non stiamo parlando solo di luglio, stiamo parlando di tutto i primi 7 mesi. Invece trovo più interessante quanto fanno notare alcuni ascoltatori, ma vengono considerati i consumi online su Amazon, eBay e quant'altro? Perché in effetti, io non so, dunque, dalle cifre che vediamo non sono ancora a un livello così alto, ma... potrebbero fare la differenza. Giro la domanda a chi da sempre studia i consumi degli italiani, e lo fa per la Confcommercio, di cui è direttore dell'ufficio studi. Mariano Bella, buonasera. Buonasera, buonasera. Partiamo dal consumo online, poi veniamo al commento complessivo. Non ci sono. Nelle vendite al dettaglio non ci sono, perché questo è l'indice del valore, ora è anche in volume, delle vendite al dettaglio, cioè di quelle che passano dai negozi fisici. Non ci sono neppure gli ambulanti, quindi è proprio il commercio fisso al dettaglio. E questo, diciamo, marginalmente qualche impatto può averlo, lo possiamo vedere anche dal fatto che, se consideriamo i dati dell'Istat sui consumi, diciamo, da contabilità nazionale, i primi due trimestri sono molto buoni in volume, fanno più 1,3, più 1,4, e invece i dati sulle vendite al dettaglio vanno molto male. Spiego perché è bella, perché adesso è chiaro che commercio online non riguarda tutti, ci sono persone che hanno più propensione, altre meno, chi vi parla per esempio ne ha pochissima, ma ha molti conoscenti che ormai comprano tutto online, dal vestito per il bambino, alle scarpe da ginnastica, al libro, all'aggeggio che ti può servire in casa, cioè tutto, praticamente ormai è rimasta solo la spesa alimentare a essere non online in quei casi. Per cui intanto vorrei sapere Quanto secondo lei sta pesando anche il cambiamento del canale dell'acquisto? Perché se poi noi dovessimo notare che sì, i consumi sono fermi, ma c'è stato un botto di consumi online, non potremo parlare di consumi fermi domani interna ferma. E in secondo luogo invece vorrei capire complessivamente che cosa ne avete tratto da questo dato di oggi. Allora, le vendite al dettaglio, no, abbiamo detto, non ci sono, non c'è l'online, non ci sono gli ambulanti, ma poi soprattutto non ci sono molte categorie di spesa, non ci sono le automobili, per esempio, non ci sono tutti i servizi. Le vendite online che riguardano gli italiani, cioè acquisti fatti dagli italiani da qualsiasi sito, quindi consumi, sono oltre 20 miliardi e crescono a tasse importanti da diverso tempo, quindi un leggero impatto da questo punto di vista ci può essere. C'è da considerare che appunto mancano tantissime altre categorie, per esempio tutti i consumi turistici che dovrebbero essere andati bene e che hanno sostenuto i dati che poi vediamo dalla contabilità nazionale dell'Istat. Il dato di oggi io non lo considero particolarmente negativo. Chi lo considera molto negativo vuol dire che aveva aspettative su questo numero. Noi non ne avevamo, in quanto se guardiamo i dati mensili degli ultimi 20-25 mesi abbiamo un'oscillazione continua, cioè un mese salgono, un mese scendono, perché questa ripresa, sebbene si stia consolidando, è comunque una ripresa fragile, è una ripresa che va confermata. E pertanto anche in termini di fiducia delle famiglie, sebbene questa fiducia sia in risalita negli ultimi 3 mesi, abbiamo ancora bisogno di conferme perché era scesa per 15 mesi consecutivamente. Quindi noi non condividiamo l'ottimismo talvolta eccessivo di alcuni commentatori sul quadro complessivo congiunturale. Poi c'è un 2018 che insomma si presenta ricco di incertezze, di rischi, sia per lo scenario internazionale che per le interne. Bella, le faccio una domanda. Ho capito benissimo che voi siete ancora molto molto prudenti e giustamente vi occupate della domanda interna dei consumi, non dell'export, e lì i problemi ci sono. Volevo capire un'altra cosa. Allora, fermo restando che l'Istat non considera gli acquisti online, appunto 20 miliardi sono un punto di PIL, non sono pochissimo proprio, anche un po' più di un punto di PIL, ma vorrei capire, perché se noi ragioniamo di consumi, io ho la sensazione bella che lo strumento dell'Istat sia assolutamente vecchio, cioè queste vendite al dettaglio possono essere interessanti per capire come vanno gli esercizi commerciali, ma io come, diciamo, policy maker oppure come giornalista che osserva le cose o come analista ho bisogno di sapere come vanno i consumi complessivamente. E faccio un esempio: all'interno della neosobrietà noi vediamo che per esempio l'elettronica da consumo, io potrei non spendere più soldi per l'abbigliamento o per andare a comprare l'alimentarista sotto casa, ma averli spesi per un abbonamento a Sky, per un abbonamento a Netflix, per altre forme di carattere tecnologico, potrei averne spesi parecchi per acquistare cose online. Non è che lo strumento sia obiettivamente un po' presbite o più che miope? Sì, però come dire, meglio averlo che non averlo, tant'è che per integrare in parte dentro le vendite al dettaglio quello che lei stava correttamente evidenziando poco fa, noi facciamo il nostro ICC, cioè l'indicatore dei consumi con commercio prende le vendite al dettaglio, le rimescola, ci aggiunge le auto, i carburanti, gli spettacoli teatrali, le vendite di servizi, la fruizione di servizi legati alla tecnologia, e il quadro che ne esce è un po' migliore e anche più completo rispetto a questo delle vendite al dettaglio. D'altra parte sono importanti anche questi indicatori parziali e io non voglio dire superati, diciamo parziali, meglio averle che non averle. Ecco l'indicatore vostro, perché lei giustamente faceva notare il turismo. Noi ieri commentavamo con il responsabile proprio di Confcommercio da parte alberghiera e l'abbiamo fatto anche nelle settimane passate, un'estate pazzesca, non solo per gli stranieri, andati molto bene, ma anche gli italiani sono tornati con crescite importanti. Allora è difficile spiegare un paese, voglio dire, col massimo rispetto per le categorie in difficoltà che sono tantissime, e vediamo i dati sulla disoccupazione. Però è difficile immaginare un paese in cui uno, diciamo, i consumi non si muovono, però poi aumentano le permanenze negli alberghi, nei ristoranti, nelle spiagge. Però siamo sicuri che aumentano le permanenze, aumentano gli arrivi. Io temo invece anche le permanenze. E la spesa? Ormai abbiamo il problema del turismo, del turismo povero, e questo è un problema che sentono, che conoscono benissimo i sindaci di moltissime città importanti del nostro paese. No, guardi, non è il turismo che è povero, è il paese che si è impoverito. Nel senso che sembra che improvvisamente. Cioè, una volta abbiamo certo. anche una composizione dei flussi turistici, per amor di Dio, ben vengano, meglio averli che non averli. Però ecco, non si può più fare l'equazione. Più notti, più arrivi, uguale più prodotto interno lordo. È una relazione più complicata. Che cosa manca? Allora, le imprese italiane a qualunque livello, grandi, medie, piccole, fornitrici, in filiera, quant'altro, hanno dimostrato con i dati di questi anni di aver aggredito moltissimo i mercati esteri. Quindi sull'export io non dico che non ci siano più problemi, perché deve crescere, e poi bisogna portare la maggior parte delle imprese manifatturiere, non solo, ad avere quote importanti di export. Però insomma lì un meccanismo in moto si è messo, se no non avremmo avuto record su record 2016-2015. Sul fronte consumi che cosa manca? Manca più la fiducia o il potere d'acquisto? Glielo dico di nuovo col massimo rispetto per tutte le famiglie italiane che l'Istat fotografa a livello di soglia di povertà o addirittura sotto la soglia di povertà. Ma noi sappiamo che io posso anche, diciamo, aumentare un po' il potere d'acquisto. Se non hai fiducia, questi soldi finiscono bellamente sotto il materasso, a meno che non servano per spese incomprimibili. Quale delle due variabili manca di più? Secondo me in questo momento manca di più la fiducia, perché è solo l'ultimo mese, agosto, in cui abbiamo avuto un balzo, ma la fiducia dopo l'effetto Renzi del 2015, in tutto il 2016 è diminuita, ed è diminuita fino a 3 mesi fa, e quindi questo aspetto purtroppo c'è ancora, e infatti la propensione al consumo non è ritornata ai livelli pre-crisi, e questo è l'aspetto secondo me più importante. Certo, se ci fosse un po' più di produttività, cioè se l'impegno che profondiamo nel lavorare si trasformasse in maggiore reddito, sarebbe anche meglio. Nel lungo andare, quanto secondo lei stanno pesando il cambiamento, i cambiamenti di abitudine al consumo? Questo lo dico all'interno delle singole categorie, cioè tu potresti avere anche un dato aggregato in cui finalmente, io mi auguro, l'anno prossimo, fra tre anni, tornano i consumi a livello del 2007 come dato statistico, però poi sono consumi completamente diversi, perché in questi 13 anni siamo tutti cambiati. Quanto pesa il cambiamento nelle scelte di consumo, quanto invece voi vedete una livella, vedere no, guarda, al di là del cambiamento qui c'è ancora un problema grosso di potere d'acquisto e di fiducia? Rispetto in termini, diciamo, di PIL e di consumi, rispetto al picco del 2007 siamo ancora molto lontani. Parliamo di 3.000-3.200 euro di reddito, 2.300 euro di consumi, quindi qualcosa come il 7%. In termini di composizione i cambiamenti sono stati forti, lo diceva prima lei perfettamente. Oggi diciamo, posso rinunciare a mangiare a pranzo, ma non posso rinunciare a essere connesso e avere i miei device elettronici sempre online. Questo è il principale cambiamento che ha colpito soprattutto categorie tradizionali di spesa come il vestiario e le calzature, le quali al loro interno si stanno anche modificando. Non abbiamo più la spesa in vestiario con i capispalla di una volta, i vestiti, il vestito. Abbiamo delle cose che sono molto più casual, molto più variabili e in un certo senso anche più confortevoli, che però hanno un importo unitario minore, e questo si vede anche in termini di spesa effettiva. Abbigliamento è ancora molto in difficoltà. Che cosa vi attendete per concludere bella sul finale d'anno? Beh, intanto speriamo di avere dentro la legge di bilancio, di avere l'eliminazione scritta delle clausole di salvaguardia. Questo secondo me potrebbe essere una cosa buona. Rischiare di far aumentare l'IVA l'anno prossimo. Vabbè, appunto, se aumentano le tasse, allora stiamo anche perdendo tempo con certi discorsi. Noi dobbiamo fare di tutto per rafforzare la ripresa, non per indebolirla. Finché non arriviamo a un 2% non possiamo aspettarci un riassorbimento significativo della disoccupazione, soprattutto giovanile. Noi ci aspettiamo comunque un andamento lento ma ancora in crescita. Lento ma ancora in crescita. Grazie anche al direttore del Centro Studi della Confcommercio, Mariano Bella. Sì, vedo molti messaggi. Alcuni scrivono: beh, abbiamo cambiato anche noi modalità di consumi, abbiamo imparato a non sprecare. Altri mi fanno notare: gli stipendi sono fermi da 10 anni, e certo che c'è anche questo elemento. E via così. Io penso, da quello che ho capito anche dal ragionamento di Mariano Bella, che sia, da un lato, sono cambiate le forme di consumo, cambiate in maniera strisciante, carsica, ma cambiate radicalmente, e dall'altro c'è un problema di recupero del potere d'acquisto distrutto dalla crisi, che ancora non si è effettuato, non si è realizzato. E oggettivamente tutto questo alleggerimento della pressione fiscale sugli italiani, io non l'ho visto, forse ero distratto, forse mi sono addormentato, ma non ho visto una grande manovra sul, adesso vedremo, ne parleremo dopo il metro, la pubblicità, che cosa vuol fare il governo sui neoassunti giovani soprattutto. Però non giriamoci attorno, tutto questo grande abbattimento della pressione fiscale non c'è stato, e quindi se unisci dato sulla disoccupazione e occupazione di questi anni, calo del potere d'acquisto e mantenimento della pressione fiscale, ci metti anche il cambiamento nel modo di consumare, il fatto che la rete permetta un confronto su tanti beni e ti permette di scegliere quello a te più conveniente, sia economicamente sia per il tipo di bene, perché è un confronto mai visto prima nella storia dell'umanità. Ecco, mettiamo tutti questi elementi assieme, mescoliamo bene, si shakera, e poi viene fuori il dato anche di oggi. Andiamo sul meteo, la pubblicità, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Ricordo che c'è anche la pagina di Focus Economia su Facebook, e quindi la diretta anche video. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da. Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inaz.it. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso andiamo al tema a cui già facevamo riferimento, e quindi le misure del governo, le misure che il governo vuole prendere. Però prima vorrei, lo dico in regia, fare la borsa se riusciamo, perché andiamo sui mercati e poi avremo una lunga pagina di politica economica che si concluderà anche con quelle che sono le intenzioni del governo nei confronti di Alitalia. Allora, per quello che riguarda la borsa, oggi l'indice poco mosso, più 0,3%, Parigi più 0,3%, Francoforte più 0,7%, Londra meno 0,20%, Dow Jones più 0,30%. Per i titoli, FinecoBank meno 1,15%, BPER meno 1%, Leonardo meno 0,70%. Bene invece Fiat Chrysler più 4,30%, Saipem più 2,80%, A2A più 2,20%. Banca Generali più 1,30% come Italgas, Mediaset più 1,20%, Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Dunque, partiamo da Fiat, Petroliferi e poi e Mediaset, e chiudiamo anche su due casi minori come capitalizzazione, mi riferisco a, da un lato Unieuro, dall'altro Cassa di Risparmi di Genova. Sì, allora, Fiat, Energetici e Mediaset. Sì, è stata la seconda seduta consecutiva che ha visto il settore auto protagonista in Europa, in primo piano i titoli delle auto tedesche, a cominciare da Daimler, perché ci si aspetta che le promesse elettorali di Angela Merkel per una mano più soft, diciamo così, meno pesante sulle limitazioni del diesel, possano trovare compimento una volta che la Merkel possa essere, sarà riconfermata, come dicono i sondaggi, alla guida del governo tedesco. Questo spinge l'auto tedesca, ma bene anche Fiat, anche perché supportata da nuovi broker, questa volta Barclays, che si aspetta non solo dalle strategie di Marchionne, ma anche dal raggiungimento degli obiettivi del 2018, una spinta ulteriore per il titolo. Il settore petrolifero è stato protagonista, non solo con Saipem già ieri positiva grazie al rialzo del petrolio, tornato ai massimi da un mese a $49 al barile per quanto riguarda il WTI trattato a New York, ma anche per Eni, che ha ricevuto il via libera del governo del Mozambico a cedere la sua quota del 25% di una concessione in un bacino esplorativo al largo delle coste del Mozambico all'americana Exxon. E sui titoli minori, in evidenza Carige, come tu ricordavi, siamo di nuovo ai ferri corti tra l'azionista, il primo azionista Malacalza e il consiglio d'amministrazione sulle modalità dell'aumento di capitale. Allora, c'è un aumento di capitale da 500 milioni, 560 milioni, sì, che deve essere deliberato nell'assemblea del prossimo 28 settembre. A questo punto Malacalza, che è l'azionista di riferimento della Cassa dei Risparmi di Genova, al 17,5% del capitale, ha proposto di blindare col diritto di opzione l'aumento di capitale. Questa manovra, se ho ben capito, piace ad altri soci come Aldo Spinelli, che è 1,5% della banca, perché metterebbe a riparo sotto aumento di capitale la banca dall'ingresso di nuovi soci esterni. Se ho ben capito, invece, altri sono un pochino più scettici, e questo è diciamo quello che è successo nei giorni scorsi. Dammi oggi la cronaca. Sì, la cronaca di oggi è che c'è questa divisione, anche perché ieri è uscito un documento del Consiglio d'amministrazione, la relazione in vista dell'aumento di capitale, che segnala invece proprio la difficoltà dello strutturare un'operazione completamente in opzione, e quindi la possibilità si debba ricorrere non a un aumento, come lo chiamavi tu, blindato, quindi offerto in opzione a tutti i soci, ma che nel caso questa opzione non fosse percorribile perché non ci fossero abbastanza sottoscrizioni disponibili, si debba ricorrere a una versione dell'aumento, quindi riservato a eventuali nuovi ingressi. Proprio quello che teme Malacalza, ma che il Consiglio di amministrazione della banca ritiene come possibile, perché ricordiamo che Carige è al terzo aumento di capitale negli ultimi 4 anni, con una situazione patrimoniale piuttosto delicata, per cui non è scontato che l'aumento di capitale vada in porto, anche perché Carige, rispetto ad altre banche italiane, è una banca che ha nell'azionariato una forte presenza di piccoli risparmiatori, oltre il 50% del capitale in mano al retail, cosiddetto retail, il piccolo risparmio, e un'operazione così delicata difficilmente può trovare spesso, insomma, il supporto del retail, ma ha bisogno anche di investitori di un certo peso perché vada a termine. Unieuro invece, qui Unieuro ha completato con successo il collocamento accelerato, ha ceduto il 17,5% del capitale, azioni a 16 euro per un totale di 56 milioni. Unieuro oggi perde però il 5,60%, si posiziona sul livello a cui sono state cedute, no? Sì, sostanzialmente sì, lo sconto del collocamento, cioè il prezzo a cui quel pacchetto a cui ti riferivi, il 17% è stato collocato, era di circa il 7% rispetto al titolo, alla chiusura del prezzo di ieri sera, e chiaramente avendo così tanta disponibilità di azioni tornate sul mercato, e quindi non in mano a un singolo investitore, l'offerta ha fatto sì che il titolo scendesse più o meno in proporzione, tant'è che ha perso il 5,6%, quindi sostanzialmente si è allineato al prezzo con cui sono stati collocati i titoli. Allora, migliori e peggiori: Neurosoft più 12,5%, Ceramiche Richetti più 11,20%, Alfio Bardolla più 7,90%, Gefran più 7,15%. Peggiori: Novare meno 55%, Visibili Editore meno 7,50%, Unieuro meno 5,60%, Telesia meno 5,50%, Caltagirone Editore meno 5,40%, per i motivi appunto sulla scommessa che il delisting non andrà in porto, di cui ragionavamo ieri, prima una grossa fiammata, adesso invece il calo a 1,3 euro. Grazie intanto a Andrea Fontana, Radio Cor, Il Sole 24 Ore. Allora, veniamo alla proposta del governo e che ieri il ministro Poletti ha fatto ai sindacati. Ne vorrei parlare con Claudio Tucci del Sole 24 Ore. Buonasera Claudio. Sì, buonasera. Ti chiedo solo un minuto di pazienza al traffico, poi tu ci illustri la proposta e poi ascolteremo invece cosa ha detto Poletti oggi a margine dell'assemblea di Confindustria Emilia, neonata associazione. Ne hanno parlato poi anche Boccia, nonché il presidente anche di Confindustria Emilia, Alberto Vacchi. 349-238-6666 per sms e WhatsApp. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta Focus Economia. Il ministro Poletti ieri ha chiarito in un confronto con 4 ore i sindacati come vuole muoversi il governo di fronte alla nuova legge di stabilità. Il tema è occupazione e occupazione giovanile. 3 anni con contributi dimezzati alle imprese che assumono giovani stabilmente, e varrà a regime 2 miliardi di euro l'anno la misura. Ci sarà comunque un tetto di 4.000 euro l'anno e la misura varrebbe, se ho ben capito, anche per convertire i contratti a termine o di apprendistato, e conterrà una norma anti licenziamenti. Claudio Tucci, di nuovo buonasera. Sì, a questo punto, da quello che si è capito, fermo restando che ancora non è chiara l'età, cioè 29 anni o 32, e il tetto dovrebbe essere di 4.000 euro l'anno, in sostanza, se ho ben capito, le opzioni per gli imprenditori sarebbero due in questo momento, no? Sì, le opzioni sarebbero per gli imprenditori è appunto questo sgravio triennale, che appunto è il dimezzamento dei contributi, l'età appunto sta oscillando tra 29 anni come chiederebbe l'Europa e 32 come il governo cerca di innalzare, 29 perché è legata a Garanzia Giovani, no? L'altra misura europea a sostegno dell'occupazione giovanile che purtroppo in Italia non sta funzionando benissimo, però il tetto sarebbe previsto quello. L'altra opzione appunto è l'apprendistato, che in realtà però questo si cerca di renderlo appunto stabile, ma solo l'esperienza duale. Lo sgravio sarebbe praticamente appunto vincolato, come ricordavi tu, al momento a una norma anti-licenziamenti, cioè a differenza del passato, l'imprenditore che ha intenzione di assumere, quando entrerà in vigore questa misura, un ragazzo, non dovrà né aver licenziato prima il lavoratore della propria azienda per 6 mesi, né poi successivamente all'assunzione licenziare il lavoratore per cui ha ottenuto l'incentivo nei 6 mesi successivi. Insomma, la misura in realtà ha un costo iniziale di 1 miliardo, 2 miliardi va a regime, il problema è che diventerebbe strutturale, nel senso che varrebbe da qui in avanti. C'è un altro segmento di questo ragionamento che in realtà ieri sul tavolo è uscito a margine, cioè l'ipotesi appunto di rendere poi alla fine di questo triennio un taglio strutturale, appunto nel senso di una riduzione di contributi di 3-4 punti sulla liquida, tornerebbe piena del cuneo fiscale, il cuneo fiscale. Qui chiaramente è una partita che è molto legata a doppio filo alle risorse, evidentemente un taglio certo. Di punto di cuneo più o meno, secondo le stime del Ministero dell'Economia, vale circa 2 miliardi, 2 miliardi e mezzo, avremo bisogno di, cioè il governo avrà bisogno di una dote molto più alta, insomma. Allora, quindi, riepilogo, se tutto andrà come il Ministro ha promesso ai sindacati, quindi in legge di stabilità, dal prossimo gennaio le opzioni per un imprenditore saranno due. Assumi un giovane, vediamo se 29 o 32 anni, con i contributi dimezzati per i primi 3 anni, fino a un tetto di 4.000 euro l'anno, però non devi licenziare nessuno nei 6 mesi precedenti e nei 6 mesi successivi. E avrai dal 2021, stando a quello che abbiamo capito, un costo comunque più basso del 3% per riduzione del cuneo fiscale. Oppure tu prendi un lavoratore giovane con il contratto di apprendistato che ha contributi molto bassi, 11% per i primi 3 anni, poi avrai altri 3 anni di contributi dimezzati, intorno al 15%, e dal settimo anno in poi ti avvantaggerai anche tu del fatto che il cuneo sarà sceso dal 33 al 30%. È più o meno questo lo schema? Questo lo schema, è molto in bilico la parte successiva, cioè il taglio strutturale dopo il dimezzamento. No, qualcuno mi chiede ma perché? Perché è ovvio che un imprenditore può avere, se stiamo parlando di giovani, può o cercare una persona che è già formata, diciamo, è già nel ruolo, oppure tu puoi avere comunque l'interesse ad avere l'apprendistato, perché dici devo formare questa persona, visto che si colloca questa misura su chi ha meno di 30 anni o al massimo intorno ai 30 anni, e quindi si vuole, se ho ben capito lo spirito, dare la possibilità all'imprenditore di dire ma se tu vuoi prendere un apprendistato non verrai penalizzato rispetto a chi prende uno a tempo indeterminato e becca subito il dimezzamento dei contributi, avrai contributi sull'apprendistato i primi 3 anni e poi altri 3 anni contributi dimezzati. Grazie di nuovo a Claudio Tucci del Sole 24 Ore. Andiamo sul GR24 adesso, 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Dopo ascoltiamo alcuni commenti su questo e parliamo anche di Alitalia. Popolo dei già svegli, dei lavoratori, dei pensatori desti con il sorgere del sole e degli incolonnati vigili nel traffico delle metropoli. Sono Luca Telese. Vi aspetto con la rassegna stampa, le grandi opinioni, le interviste che fanno pensare. Non mancate. 24 mattino, tutti i giorni alle 6.30 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da. Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inaz.it. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo, abbiamo illustrato le proposte del governo e quello su cui sta puntando con un costo a regime di 2 miliardi, 1 miliardo il primo anno, come decontribuzioni per i neoassunti. Resta da stabilire la soglia dell'età. Ne ha parlato oggi anche il ministro Poletti da Bologna, dove si è tenuta l'assemblea, poi lo ricorderemo, la prima assemblea pubblica di Confindustria Emilia Area Centro, che riunisce tra l'altro fonde le federazioni di Bologna, Modena e Ferrara. Ma diciamo, ascoltiamo Giuliano Poletti al microfono del nostro Simone Spezia sull'obiettivo che sta perseguendo il governo. Noi abbiamo un grande bisogno di competenze tecniche, vediamo le imprese che ci chiedono profili in questo senso e quindi abbiamo bisogno del rafforzamento forte della formazione tecnica. Abbiamo aperto un ragionamento insieme naturalmente al MIUR, al Ministero dello Sviluppo Economico, sul tema del cosiddetto lavoro 4.0, cioè come connettere le competenze e il sapere alla scelta delle imprese di investire in tecnologie innovative, nell'automazione, nella digitalizzazione. Quindi c'è un ventaglio largo di strumenti che vanno usati in maniera concertata e questo è quello che stiamo facendo, discutendo con le organizzazioni sindacali. Poi nei prossimi giorni incontreremo anche le organizzazioni datoriali, perché è chiaro che anche il mondo dell'impresa è del tutto giusto che partecipi a questa discussione, proprio perché si abbia tutti insieme cognizione della complessità di questo tema e un'assunzione condivisa di responsabilità. Noi stiamo lavorando anche insieme al MIUR sul tema dell'alternanza scuola-lavoro, della possibilità di costruire strumenti sempre più efficaci di accompagnamento. E su questo è intervenuto sempre al microfono a margine poi dell'assemblea del nostro Simone Spezia anche il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che ha detto abbiamo chiara la differenza tra la legge di bilancio, cioè la manovra che va fatta adesso, e invece la legislatura, quindi il piano che ti devi dare per i 5 anni di legislatura. Non abbiamo per i 4 anni di legislatura, non abbiamo dicevo grandi aspettative, sappiamo che su questa legge di bilancio ci sono poche risorse, altra cosa invece è ragionare sul piano di legislatura, e comunque ci auguriamo che le soluzioni del governo non vadano a deludere i giovani. Noi abbiamo chiara la differenza tra legge di bilancio e piano di legislatura. Sulla prossima legge di bilancio non abbiamo grandi aspettative, non ci sono grandi risorse, occorre fare in modo di, come dire, usarle su quelli che sono i nodi di sviluppo, come si è fatto fino ad oggi, e poi avere un'idea di medio termine di politica economica che possa ridurre questi deficit di competitività tra Italia e altri paesi. Se siamo secondi, nonostante le criticità che abbiamo rispetto a paesi come la Germania, che cosa potremmo essere? Non è un sogno, è una visione di paese, è un'idea di società del futuro che passa attraverso un pensiero economico, e noi sottolineeremo l'importanza di questa fase. Più che deludere noi, non deludano i giovani. Noi abbiamo posto il tema giovani sin dall'assemblea di maggio, perché c'è un divario rilevante tra giovani e società. Occorre costruire una società aperta e inclusiva a partire dai giovani, e quindi occorrono risorse che aiutino, diciamo, il mondo del lavoro e dei giovani a essere inclusi nel mondo del lavoro. È una grande sfida del paese, riduce uno dei divari, anche questa è politica industriale. La politica industriale è fatta di tanti piccoli passi, questo sarebbe un ulteriore passo importante. Più che deludere noi abbiamo posto il tema, abbiamo fatto una proposta, importante è non deludere i giovani, mi sembra che il messaggio di oggi sia chiarissimo qui. E visto che parlavano sia il ministro Poletti che il presidente di Confindustria Boccia a margine, dicevo, della prima assemblea pubblica di Confindustria Emilia, area centro, è arrivato anche un plauso da parte del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, all'iniziativa che ha visto fondere le federazioni di Bologna, Modena e Ferrara. E su questo sentiamo Alberto Vacchi, presidente appunto della neonata associazione Confindustria Emilia Area Centro. È molto confortante vedere una partecipazione degli associati sicuramente numerosa. Credo che la cosa più gratificante è la presenza di tutte le istituzioni dei tre territori, che hanno condiviso con noi questo percorso di unificazione e che percepiscono come noi la necessità di portare avanti programmi comuni anche a livello istituzionale. Quindi questo direi che è il punto per noi più gratificante, per me più interessante, che dovremo poi implementare nel prossimo futuro. Come si diceva, noi vorremmo costruire un momento di condivisione con le istituzioni amministrative comunali, le università, le organizzazioni sindacali dei tre territori, per portare avanti un percorso comune incentrato prevalentemente sul mondo formazione, proprio per far sì che questo territorio, con potenzialità incredibili, possa aiutare tutti i nostri giovani a identificare percorsi coerenti con quello che la tecnologia, l'evoluzione tecnologica, i mercati stanno offrendo. Non c'è mai stato la non riappacificazione, il rapporto è stato, ma non c'era bisogno, non c'era neanche un allontanamento, non c'è mai stato, io l'ho detto fin dal primo momento. È sempre stato un rapporto cordiale, di stima reciproca, che prima c'era ed è sempre mantenuto. La polemica era puramente giornalistica, voluta evidentemente, ma da parte di terzi, non certamente da parte nostra. E quest'ultimo riferimento di Alberto Vacchi era relativo al suo rapporto col presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che l'avete ascoltato, visto che tutti e due si erano sfidati alla presidenza, ma appunto Vacchi ha detto che il rapporto è sempre stato ottimo e cordiale al di là delle ricostruzioni giornalistiche. A proposito di ricostruzioni giornalistiche, c'è una vicenda che ha fatto molto discutere in questi giorni, qualcuno l'avrà letta anche sui siti, molta polemica, moltissime critiche. Mi riferisco a uno dei marchi prestigiosi di questo paese, Carpisa. Carpisa è controllata da chi controlla anche un altro marchio che nulla c'entra con le valigie, mi riferisco a Yamamay. I cultori del genere, insomma, sanno a cosa mi riferisco. Carpisa appunto vende pelletterie, borse, valigie, accessori. Che cosa è successo? Ha lanciato nei giorni scorsi una campagna marketing e quindi anche pubblicitaria, proponendo a chi acquistava una borsa di partecipare a un concorso in cui poteva poi diventare, se vinto, poteva collaborare per un mese nel settore comunicazione, lanciando idee di marketing, creative e quant'altro dentro l'azienda, pagato 500 euro. Allora, lei poi non vi dico cosa è successo sulla rete, perché hanno detto: ma come, prima mi fai comprare una borsa e poi mi tieni un mese per 500 euro, magari devo pure darti le idee creative che poi tu riutilizzi guadagnandoci molto di più. Allora, la nostra Annalita D'Ambrosio oggi, durante Effetto Giorno, ha raggiunto l'amministratore delegato di Carpisa, che è Gianluigi Cimmino, il quale ha posto anche le scuse all'azienda e ha chiarito l'intento. Ascoltiamo. L'errore è stato sicuramente quello di legare la possibilità di partecipare al concorso all'acquisto di una borsa. C'è anche chi ha avuto il coraggio, mi consenta, di polemizzare sulla presentazione del progetto, cosa che viene normalmente fatta in tutti i case study aziendali. Che poi è un'opportunità, insomma. Cioè... È un'opportunità. Io stesso all'università lavoravo su progetti che poi magari vedevo realizzati dal consumo, quindi vedevo le aziende che poi da questi progetti prendevano gli spunti per la realizzazione dei prodotti. Questa è una cosa che abitualmente si fa, è un'opportunità per il giovane, è un'opportunità per l'azienda di trovare talenti sul mercato. Quindi avete avuto tantissime offerte, poi stasera entro mezzanotte comunicherete il nome del vincitore. Però voi vi siete scusati, perché insomma le polemiche ci sono state, soprattutto sul web. Io mi sono web. Scusato anche soprattutto personalmente, perché era un argomento che non andava assolutamente trattato con un concorso. È un periodo breve, perché normalmente noi utilizziamo lo stage, oltretutto in percentuale anche ridotta rispetto a quello che consente la legge, ma con un obiettivo sempre di inserimento poi della risorsa nel contesto aziendale, che vuol dire che soltanto negli ultimi 2 anni 50 giovani che sono entrati da noi come stagisti sono poi diventati dei collaboratori. E il fatto che questa cosa abbia urtato la suscettibilità dei giovani del mondo del lavoro mi ha dato sinceramente fastidio proprio personale, e per questo ho sentito il bisogno di scusarmi. Se fosse stato possibile ritirare prima il concorso l'avrei fatto, ma esistono dei regolamenti ministeriali che vanno rispettati. È una cosa che commercialmente non ha portato nulla, perché le adesioni sono state pochissime. È chiaro che poi le strumentalizzazioni ci sono state, ma con queste strumentalizzazioni, con questo approccio al mondo del web e del digital, dei social, dobbiamo imparare a convivere. Soy el fuego que... Devo dire che insomma le scuse sono arrivate, le avete sentite da parte dello stesso Cimmino, molto chiare. Tra l'altro, appunto, l'obiettivo è stato definito come sbagliato collegare a questa possibilità di stage anche breve l'acquisto di una borsa. Insomma, non vorrei essere nei panni dell'uomo del marketing o della comunicazione che dentro Carpisa ha avuto la bella idea di agganciare un concorso assolutamente legittimo, viene a fare un'esperienza da noi con però l'acquisto di un bene, perché è chiaro che il boomerang era dietro l'angolo, per un posto chissà quante borse vai a comprare. Poi Cimino ha chiarito che dal punto di vista commerciale non ha avuto neanche tutto questo effetto. Ripeto, l'unica considerazione che mi viene è che non vorrei essere nei panni di chi ha ideato questa iniziativa così, come possiamo definirla, improvvisata, così da passo falso. Insomma, dai, lasciate stare la parte commerciale. Se uno vuole utilizzare i giovani, giustamente li può utilizzare anche sotto forma di stage, ma non c'entra nulla l'acquisto del prodotto, per favore, anche perché insomma, se no ti espone a una marea di accuse. Questo è il pasticcio che si è concretizzato. Invece, dopo il traffico, andremo su Alitalia. Qui non è un problema di pasticcio, qui bisogna capire che cosa avverrà il 2 ottobre, quando c'è la scadenza per presentare le offerte vincolanti per acquistare o una parte degli asset o tutta Alitalia. Dopo il traffico, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Cosa ti preparo? La tavola, prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Vi presento Focus Economia. Soy el fuego que... Diciotto e 21 minuti. Allora, Alitalia, per ora Air France ha detto no ieri, non è interessata né all'Italia né a una parte, né al tutto, né ad Air Berlin. Invece oggi, del motivo per cui ne parliamo, Ryanair ha confermato che entro il 2 ottobre presenterà un'offerta vincolante per l'acquisto di Alitalia, ma solo sull'asset che riguarda il lungo raggio. Lo ha confermato oggi da Bologna il numero uno di Ryanair, Michael O'Leary. Ora, ripeto, entro il 15 settembre ci si può fare avanti per accedere al data room e quindi conoscere la situazione dell'azienda, e poi entro il 2 ottobre bisogna presentare le offerte vincolanti. Al momento sarebbero 13, forse 15 i potenziali interessati, nessuno si sarebbe fatto ancora avanti per prendere tutta la compagnia, mentre vi sarebbero diversi interessati sia sulla parte aviation, quindi anche la parte manutenzione, che la parte handling. Invece l'obiettivo del governo e dei tre commissari è vendere la compagnia per intero. Oggi O'Leary ha detto: non vogliamo assolutamente trasformare l'Italia in un low cost, vedo un futuro molto, ci potrebbe essere un futuro molto positivo per il lungo raggio di Alitalia, resterebbe una compagnia diversa da Ryanair. Certo, bisognerà fare riforme significative, vi saranno perdite di posti di lavoro, riformare le inefficienze, nuove relazioni con gli aeroporti. Poi O'Leary, che è uno molto polemico, ha detto: noi offriamo come Ryanair crescita e speranza per il futuro, Lufthansa e Air France offrono solo fallimenti. Professor Ugo Arrigo insegna a economia all'Università di Milano Bicocca, buonasera. Buonasera. E da sempre segue i temi del trasporto, in particolare anche di Alitalia. Professore, lei che idea si è fatto? Perché ormai i giorni non sono tantissimi, cioè 15 settembre, ma poi soprattutto il 2 ottobre, insomma il mese inizia, tra virgolette, ad accorciarsi. Il governo continua a puntare sull'obiettivo di venderla tutta. Mi sembra che però su questo tutte le voci, le indiscrezioni oppure le conferme come oggi di Ryanair puntino a pezzi di Alitalia. Sì, d'altra parte questo era prevedibile, nel senso che se chi partecipa alla procedura è una compagnia aerea esistente, non ha interesse a comprare tutta l'azienda esistente, quindi è interessata solo a una parte, ovviamente la parte più appetibile è il lungo raggio. A mio avviso, la proposta di O'Leary, di Ryanair di oggi è veritiera, non è l'ennesima uscita alla ricerca di articoli pubblicitari, e questa è parecchio interessante. E però d'altra parte, se fosse una proposta veritiera e non l'ennesima provocazione, forse non l'avrebbe raccontata e quindi avrebbe partecipato. Quindi lei non è così convinto che O'Leary, che è uno che è abituato a fare marketing con se stesso, mettiamola così, che che è abilissimo nel promuovere l'azienda usando se stesso come testimonial, ma anche le pubblicità molto provocatorie, vende articoli gratuiti sulla stampa, insomma. Ah, quello è bravo, per carità. Se lui vuole entrare nel lungo raggio e lo vuol fare rapidamente, perché ha visto Norwegian, ha visto che low cost stanno avviandosi verso questo segmento che in passato tutti ritenevano fosse impossibile per i vettori low cost, quindi l'intercontinentale, allora questa è sicuramente l'occasione d'oro per entrarci. Però lui il breve raggio ce l'ha già a basso costo, quindi l'alimentazione di un hub ce l'ha già, però se lui veramente entrasse probabilmente gli converrebbe spostare l'hub o creare un hub, rilanciare Malpensa, spostarsi da Bergamo a Orio Seria, dove ha credo l'80-90% del traffico, a Malpensa, e da lì far partire aerei verso il resto del mondo più che del Fiumicino, dove ha una quota invece un po' più piccola. Ecco, l'altra questione è nel momento in cui lui conterasse, quindi diamo per scontato che l'offerta sia vera e non uscita pubblicitaria, nel momento in cui lui comprasse questa parte, questo segmento dell'Italia, quindi questa flotta abbastanza piccola dell'Italia, poi però è libero di farla volare da dove crede, e quindi ad esempio per il Nord America forse gli converrebbe far volare aerei che lui prende dall'Italia, da Londra piuttosto che dall'Irlanda. Nel momento in cui lui compra il segmento a lungo raggio, lo usa da dove meglio ritiene, partendo dall'Europa, quindi non necessariamente farà gli interessi del nostro paese. Ecco, gli altri però, professor Arrigo, perché certo che c'è il massimo riservo, ma lei anche in questo caso ci stava raccontando come le low cost si stiano muovendo anche sulla lunga percorrenza, il lungo raggio, cosa che invece una volta era esclusa, la low cost valeva per i viaggi, diciamo, continentali, capitale su capitale o aeroporti minori su aeroporti minori. ma difficilmente andava, delle volte assomigliava più ai vecchi charter di una volta come atteggiamento che non alle, alle ex compagnie di bandiera. Invece si stanno spostando anche sul lungo raggio. Gli altri possibili soggetti possibilmente interessati all'Italia, lei dove li individua? Ma allora, EasyJet potrebbe essere un'alternativa. EasyJet. Anche EasyJet è un ottimo vettore sul breve medio, sull'europeo, non ha un low cost così spinto come Ryanair, e se volesse inserirsi nel lungo raggio, anche in questo caso potrebbe essere la buona occasione per farlo. EasyJet è tra l'altro operatore principale a Malpensa al Terminal 2, mm-hmm. quindi ha molti traffici, molti aerei su Milano. Mi scusi, una domanda però... Se tutti sono interessati al lungo raggio e il breve raggio, c'è il Roma-Catania piuttosto che Milano-Roma, dica. Il breve raggio c'è già e dove vale, dove ha senso, è fatto principalmente da Ryanair, da EasyJet, da Vueling. Il problema è che sul breve e medio raggio, sui voli italiani ed europei, è una questione di mercato, cioè ci pensa il mercato, ci pensano gli operatori e sono quasi tutti low cost. E quindi lì, se anche l'Italia sparisse e chiudesse, il mercato non se ne accorgerebbe. Cioè, i voli Milano-Roma o Roma-Catania o Roma-Bari verrebbero sostituiti dai low cost, le dice? Quelli attualmente in mano dall'Italia. Roma, secondo me dal treno, cioè tra qualche anno probabilmente non ci saranno neanche più voli Milano-Roma e andremo tutti in treno. E no, Milano-Catania, Milano-Bari, Milano-Brindisi, eccetera, no, non sono sostituibili, però è chiaro che possono andarci vettori low cost o vettori tradizionali agli stessi prezzi dei vettori low cost. Anche oggi all'Italia grosso modo fa prezzi simili, per questo che ha poi un grado di copertura dei costi più basso rispetto a... cioè è un vettore che ha i costi di una compagnia di bandiera ma i ricavi di un vettore low cost, e questo si vede poi nel conto economico. Allora, grazie. Intanto a questo punto mancano poco più di 3 settimane per poi avere le offerte vincolanti. Grazie intanto all'economista Ugo Arrigo, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Berisoni gli auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo come sempre domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.